Linee d'ombra di Matteo Caccia. Non potevo che evadere andando a correre un po', era l'unica cosa che mi distraeva da questa situazione. Mia moglie mi guarda come se le avessi confessato un tradimento. Non avevo mai manifestato in 5 anni di matrimonio la volontà di fare esercizio fisico. Storie di un veterinario che si mette a correre e della prima donna maratoneta, in una puntata che si intitola La prima maratona. Radio ogni tanto ha un sussulto, perde qualche metro, si riprende. Vorobiev non si fida più della tabella di Zatopek. Si mette a rapporto da Popov e ne ottiene il permesso di fare come gli pare. Al terzo posto è il neozelandese Barry McGee. Abebe accarezza l'asfalto. Radi lo percuote con passi sempre più pesanti. Sotto l'arco di San Sebastiano transitano atleti con distacchi incolmabili. Qualcuno è spento dalla stanchezza, ma va avanti. Chiunque termina la maratona è un vincitore. Manca 1 chilometro al traguardo. E adesso Radi deve lasciare che Abebe vada da solo a vivere la fantastica notte. Questo che abbiamo sentito è un documento dell'epoca, ovviamente, lo sentiamo dalla voce, dall'incedere del commentatore, dalla musica, che racconta la maratona, la vittoria della maratona delle Olimpiadi di Roma del 1960, le Olimpiadi, quelle di Muhammad Ali, insomma, le Olimpiadi, quelle che sono passate alla storia per noi, perché sono state di fatto l'ultima Olimpiade estiva che è avvenuta nel nostro paese. Roma era bellissima, le immagini, se andate a vederle, di quella Roma di quegli anni erano meravigliose, e le immagini di questo breve documentario, se cercate Olimpiadi di Roma 1960 la maratona, lo trovate, è un video che dura circa 10 minuti, raccontano di quella vittoria strepitosa e leggendaria, perché Abebe Bikila arrivò a Roma, arrivò al traguardo di Roma a piedi scalzi. Era etiope e venne nominato appunto poi cavaliere, divenne un eroe nazionale in Etiopia e divenne un personaggio conosciutissimo per molti anni. Bikila era considerato il maratoneta e chiunque corresse, chissà, mi ricordo, se non ricordo male, un film di Salvatores in cui Abate Antuono faceva con il suo tono che conosciamo, chi sei? Bikila, insomma, la tirava fuori. Questo è un nome che per quegli anni, per quella generazione, è diventato molto molto famoso. Vi abbiamo fatto sentire questa cosa perché la puntata di oggi si intitola La prima maratona, e parliamo di maratona, ma lo facciamo come sempre cercando di trarci fuori una storia, cioè non facciamo l'apologia della corsa o del fitness, e tantomeno facciamo la geografia di qualche maratoneta. Cerchiamo di raccontarvi delle storie che sono legate in questo caso a un'attività e che soprattutto hanno varcato un confine, perché la prima storia è la storia di un uomo che nella vita fa il veterinario e per il primo pezzo della sua vita è particolarmente sedentario. Lo avete sentito anche proprio lo stralcio che vi abbiamo raccontato in apertura, no? Quando la moglie è sconvolta dal fatto che lui dica vado a farmi una corsa. Questo per le persone che iniziano, c'è sempre un giorno in cui cominci, anche se poi vai a fare, diventi un Ironman oppure vai in bicicletta e corri gare da 300 km da amatore, intendo dire, c'è sempre un giorno in cui dici vabbè, che faccio oggi? Proviamo a farci un giro in bicicletta, proviamo a uscire a farci una corsetta. Ecco, magari questo periodo in cui si può lentamente ricominciare ad uscire, si può ricominciare a prendere un pochettino di confidenza con la corsa all'esterno, perché insomma da lunedì in qualche modo ci si può allontanare dalla propria casa, cominciare a correre, potrebbe essere l'occasione per farlo, per magari immaginarsi, visto che viviamo di grandi progetti, questi mesi abbiamo vissuto moltissimo di speranze per il futuro, di progetti, allora potrebbe essere quello, correre una maratona, correre una mezza maratona, correre 10 km, ma per il gusto di farlo, no? Evitando tutti i fanatismi che sono legati a quel mondo. Ebbene, la prima storia parla di quella linea di confine che si può varcare quando un giorno si dice vabbè, dai, metto le scarpe ed esco a fare una corsa. La seconda storia invece racconta qualcosa che ad oggi sembra sconvolgente, ed è come fino a qualche anno fa per le donne fosse impossibile correre una maratona. Fino a qualche anno fa, per capirci, all'epoca del video che abbiamo mandato, dell'audio del video che abbiamo mandato, 1960, le donne non potevano partecipare alle maratone. Non potevano partecipare alle maratone olimpiche, ovviamente, ma non potevano partecipare a nessuna maratona, nemmeno alla maratona di New York, la maratona di Boston, quelle più importanti. Per le donne non era possibile partecipare. E parliamo del 1960. Ecco, oggi vi racconteremo non una ma due storie che ci dicono come tutto questo a un certo punto è crollato. Ed è crollato nell'unico modo possibile, cioè quando qualcuno, cioè nella fattispecie qualcuna, cioè due donne, non una ma due donne, hanno deciso che era il caso di rompere questa tradizione assurda. Insomma, abbiamo storie, come sempre, storie di confine, storie di persone che varcano una soglia e si trovano in un pezzo di mondo nuovo. Voi mettetevi comodi, noi cominciamo. Benvenuti a Linee d'Ombra. Fin da bambino ho sempre voluto fare il veterinario. La domenica preferivo stare con le galline e i conigli di mia nonna, piuttosto che giocare a pallone. Ero un po' ciccio e sullo zaino delle elementari avevo scritto «Viva Juve e viva mangiare!». Sono sempre stato bravino a scuola e ho sempre mostrato interesse per materie scientifiche. Ma con lo sport non sono mai andato d'accordo, anche se durante l'adolescenza e l'università ho ceduto anche io al classico calcetto. Tanto da mettere su una squadra e vincere campionati studenteschi e provinciali, goliardicamente, divertendoci tantissimo. Poi si diventa grandi, ci si deve staccare dalla vita da studente e devi capire cosa vuoi dalla vita. Il sogno di bambino si era avverato. Ero diventato un medico veterinario. Avevo conosciuto un collega di Scandicci tramite la mia fidanzata dell'epoca. Iniziai a frequentarlo per poi collaborare assiduamente con lui per 5 anni. Poi sentii crescere la voglia di tornare a Pisa e di fare qualcosa di mio. Mi butto a capofitto alla ricerca di un fondo, ma la burocrazia è elevatissima. Trovo una collega in gravidanza, rilevo il 50% dell'ambulatorio. All'inizio i soldi sono quelli che sono, faccio tutto quello che mi viene richiesto nelle mie possibilità. Non dico mai di no ad ogni richiesta e mi sbatto per accontentare la clientela. Intraprendo anche una collaborazione con un ambulatorio della Versilia. Le mie giornate sono fatte da 13 ore di lavoro e 120 km dal lunedì al sabato. Inoltre sono sempre reperibile, 24 ore su 24, praticamente non smetto mai. Salto il pranzo, spesso mangio un panino in auto, sono stressatissimo, non resisto e inizio a cedere. In modo random sviluppo febbre altissima, 39, anche di più. In particolare gli episodi febbrili si verificano durante i giorni di riposo o in prossimità delle giornate di festa. Capisco che il corpo mi sta lanciando dei segnali, ma non posso rallentare con il lavoro. Le esigenze della clientela sono tante e non posso trascurare i miei pazienti. La professione veterinaria è una professione particolare. Siamo privati che offrono un servizio di pubblica utilità e di prevenzione. Spesso sottovalutati o considerati come dei San Francesco, ma per quanto sia una bellissima professione, è un lavoro. È il nostro lavoro. Insomma, non posso continuare così. Il mio corpo mi sta dicendo che sono al limite. Io mi occupo prevalentemente di cane e gatto, comunque di animali da compagnia. Ho mantenuto quei ritmi di lavoro per almeno 4 anni. Io ero imbrigliato in questo vortice di lavoro dove venivo risucchiato dalla clientela, dalle persone, dalla mancanza di orari. È il 18 giugno 2015. La cosa più semplice è ritagliarmi qualche minuto per provare a correre. Dico a mia moglie, esco, vado a correre. Mia moglie mi guarda come se le avessi confessato un tradimento. Incredula, mi chiede se sono impazzito. Non avevo mai manifestato in 5 anni di matrimonio la volontà di fare esercizio fisico. Lei invece era fissata col fitness. Mi segue in questa che diventerà una vera avventura. Le giornate erano lunghe, andavamo a sera. Il meteo perfetto, si correva attraverso campi di grano e il lungomare di Pisa. Avevo trovato la mia dimensione, stavo bene, finalmente qualcosa che mi piaceva. Non c'era la competizione, mi muovevo per me. Facevo una cosa solo per me. Avevo trovato un modo per sfogare lo stress e le tossine accumulate nelle giornate e negli anni di lavoro. Con il passare del tempo si forma nella testa un pensiero: correre una maratona. La distanza regina, ovviamente, la gara che chiude le Olimpiadi, il traguardo che tutti vorrebbero tagliare. Wind blows snow outside my window. crowd below runs wild in the streets. Two rented brothers race down two separate alleys, heading for the finish line. Down in the train yard, out by the stockyard, butchers with aprons hack meat in the snow. Blood has the brothers pulsing with envy, heading for the finish line. Two rented brothers' faces keep changing, like these feelings that I have for you. Nothing's forever, not even 5 minutes, when you're heading for the finish line. Down by the depot, out by the meat rack, down by the tunnels surrounding the jails, prisoners are marching squares and in circles. They're heading for the finish line. Noah's Ark. They're stabbing each other in the dark, saluting a flag made of some rich guy's socks, heading for the finish line. Close to the line, the ice is cracking, two rented feelings sitting in the stands, two mothers, two fathers, and both of them are paid for. All of a sudden it comes back to me. Just up ahead's the finish line. Two banded referees and two checkered rags. Out of the corner of my eye comes a dark horse with black wings. Ooh, heading for the finish line. Di lì a pochi mesi, a dicembre, ci sarebbe stata la maratona di Pisa, la maratona della mia città. E allora, quale occasione migliore per dimostrare a me stesso quanto valevo? Inizio la preparazione, ma senza piano di allenamento, solo con la mia forza di volontà. Vado a sensazione. Inizio a seguire pagine di runners. I runners sono garosissimi. Si parla di tempi, di piani di allenamento, di alimentazione. Non mi interessano queste cose e focalizzo la mia attenzione sui tapascioni della domenica, sulla volontà di stare bene, in compagnia e di tagliare il traguardo senza farsi del male. Passavano i mesi e la data intanto si avvicinava. Chiamo il mio collega di Scandicci, diventato nel frattempo non solo maratoneta, ma anche ultramaratoneta, con gare di alto livello anche all'estero, e chiedo consigli su come avrei potuto fare. Mi incoraggia ad iscrivermi alla maratona, assicurandomi che al traguardo mi ci avrebbe portato lui. Mi fido, come ho sempre fatto. Mi iscrivo. Nel frattempo corro 3 gare da 21 km e dico dentro di me, bah, basta raddoppiare. Eh sì, basta. La maratona è un sogno, penso che chiunque inizi a correre e gli piace questo sport alla fine sogna la maratona, perché comunque sogna New York, sogna quei grandi eventi che si vedono alla televisione, la gara regina delle Olimpiadi, quindi comunque è un obiettivo che ti poni. Arrivata a 21 e ti dici basta raddoppiare, poi in realtà non è proprio così, però diciamo che è quella volontà, quella forza che ti vuol portare oltre. Maratona di Pisa, 15 dicembre 2015. Il giorno è arrivato, sono le 9 del mattino. Lo sparo, bang, si parte. Non si torna più indietro. Le gambe tremano, la voglia è di fare bene. Il percorso lo conosco a memoria. Pisa è la mia città, ma non conosco i chilometri. Ovvero, non so a che chilometro siamo e quando ci arriveremo. Non ho punti di riferimento. Seguo il mio collega e i suoi amici. A metà gara ci troviamo nel lungomare al mare, il posto in cui lavoro abitualmente. Siamo circa al 25esimo chilometro. Ho superato la mezza maratona, non sono mai andato oltre questa distanza. Sto bene, il respiro è tranquillo, le gambe vanno da sole. L'atmosfera tra noi è allegra, talmente allegra che mi chiedono se conosco un bar. Ce ne sono molti e li conosco praticamente tutti. Ci fermiamo e i miei navigati compagni di viaggio chiedono 2 birre da 66 centilitri e 3 bicchieri. Io rimango sbalordito e basito. Ci beviamo la birra e ripartiamo. Inizia il pezzo più duro, il viale, sono 10 chilometri. E qui inizia la paura. Quel viale io lo conosco bene, lo percorro ogni giorno, è lungo. Nessuna deviazione, nessuna distrazione, nessuno a fare il tifo per le strade. Vedo il cartello dei 30 chilometri e la città è in lontananza. La testa ha cominciato ad abbandonarmi e i miei compagni suggeriscono di alternare corsa e camminata. Mi fido. Superato il ristoro dei 35 km, mi viene detto, il prossimo ristoro avrà il numero 4 davanti. E lo vedo, quel 40 km. Sono a Pisa. Quelle parole suonano come il Vangelo, dandomi una forza che non pensavo di avere. La torre di Pisa all'orizzonte, il traguardo è dietro l'ultima curva e Piazza dei Miracoli mi appare bellissima. Ho terminato la mia prima maratona. Da quel giorno ne ho fatte diverse, ma la prima è indimenticabile. Si intitola La mia prima maratona, anzi la prima maratona, questa puntata di Linee d'Ombra di oggi, e chiaramente c'entrano le maratone, ma la cosa a cui tengo sempre quando insomma parliamo di cose molto specifiche come il running, come la bicicletta o come il calcio, è che noi di solito usiamo quella storia per raccontare molto di più, per raccontare molto altro, ed è esattamente anche il caso di Francesco. Pronto, ciao Francesco, buongiorno. Ciao, buonasera. Senti, come stai Francesco innanzitutto? Tu hai continuato a fare il veterinario nonostante le maratone che hai fatto? Sì, ho continuato a fare il veterinario podista. ho continuato. E quindi adesso stai lavorando in questo momento, anche in questo periodo? Sì, in questo momento diciamo abbiamo un po' limitato l'attività, le cose più urgenti, però diciamo la nostra professione non si è mai fermata, quindi abbiamo lavorato comunque con un po' di stress ulteriore, perché comunque gestire tante cose con un triage telefonico non è mai semplice, perché un'urgenza potrebbe non essere poi una relativa urgenza, ecco. Quindi... Ma quindi tu fai molto, insomma, animali da compagnia anche, giusto? Cani, sì, gatti? Sì, io mi occupo prevalentemente di cane e gatto. Quindi lì il problema sono più i padroni che gli animali di solito? Lo dico per esperienza, perché io ho un cane, quindi so cosa vuol dire oddio sta malissimo e ha un po' di diarrea poi. Esatto, praticamente spesso quella che il proprietario ritiene sia una grande urgenza magari è semplicemente una piccola zecca, oppure una diarrea che magari con una semplice compressa magari potrebbe essere risolta. Però purtroppo il nostro lavoro ci impone comunque di valutare bene sempre le situazioni, certo, perché gli animali non parlano. Senti Francesco, io vorrei tornare ad un'immagine molto bella, che è la faccia di tua moglie quando tu le dici io mi sa che vado a correre, quasi 5 anni fa. Te la ricordi ancora? Me la ricordo ancora, sì, perché io facevo una vita piuttosto sedentaria, dettata dallo stress lavorativo, perché ero sempre reperibile, quindi non riuscivo diciamo a conciliare quei 10 minuti, mezz'ora di sport E quindi il giorno che ho deciso di farlo, mia moglie veramente è rimasta scioccata, neanche gli avessi detto ti ho tradito. Senti, poi da quel giorno in avanti la tua vita è cambiata, nel senso che sei riuscito ad avere uno spazio per questa attività, sei riuscito a ritagliartelo? Sì, ho voluto ritagliarmi uno spazio perché comunque il fisico purtroppo mi stava dicendo che dovevo rallentare. Avevo questa febbre improvvisa e quindi ho pian piano iniziato a fare attività fisica e la cosa più facile era mettersi un paio di scarpette e andare a correre. E questa cosa pian piano mi ha giovato sia dal punto di vista psicologico che fisico. Io lo dico un po' per esperienza, è abbastanza difficile essere laici nel mondo del running o degli sport di endurance, no? Diventa quasi una religione per moltissimi. L'approccio è quello appunto dei numeri, dei dati, dei tempi, le statistiche, eccetera, eccetera, eccetera. Tu riesci ad essere, come dire, a starne un po' fuori oppure sei stato investito completamente dalla corsa? Io sicuramente sono stato investito completamente, però rimango un po' fuori dalle varie tabelle. Io la prendo più come divertimento, anche se alla fine sono tante oramai le maratone che ho corso. Quante ne hai fatte ad oggi? Ad oggi sono a 42, mi sembra, 42 o 43, wow. Non ricordo bene. Ma sono tanti, quante ne fai? Scusami, sei cominciato 5 anni fa, devo dire che ne fai quante all'anno? È una decina l'anno più o meno. Ok, fortuna che ne sei rimasto fuori, Francesco, altrimenti se ti avesse preso ne correvi una settimana. Dove sei stato? Sei stato, sì, tanto in giro a correre? Siamo stati all'estero, siamo stati a Chicago, a Valencia a dicembre, a Londra lo scorso anno, che è stata un'esperienza pazzesca, una festa, veramente una festa, ed è questo per me lo spirito della maratona, veramente una festa dove vengono coinvolti tutti quanti, la popolazione e i corridori. Tra l'altro c'è bisogno di guardare il cronometro. Tra l'altro tu citi appunto la maratona di Pisa, che è la tua città ed è una maratona abbastanza, ormai insomma c'ha anche la sua storia, e io la conosco abbastanza bene perché delle mie poche che ho fatto, due sono state a Pisa per motivi di conoscenze, di amicizie, e insomma mi ricordo molto bene quel lungo viale che ritorna dal mare, riporta a Pisa, interminabile, una roba insomma. Gli ultimi, di solito già si dice che gli ultimi 10-12 km siano più difficili, farli in un viale che non finisce più, che non ti dà riferimenti. Infatti mentre leggevo la tua storia ti sono sentato e mi sono sentito molto molto vicino a te, assolutamente, Francesco. Senti Francesco, l'ultima cosa, cosa sono i tapascioni o chi sono i tapascioni? I tapascioni sono quelli che magari la domenica mattina vanno a correre facendo quelle gare di paese a partenza libera e che vanno lì più che altro un po' per il ristoro, un po' per la compagnia. Ok, chiarissimo. Mi stanno molto simpatici i tapascioni, devo dire, già per come li definisci. Io sono un tapascione, okay, della pianeta alla fine. Francesco, ti ringrazio per la storia e la chiacchierata, in bocca al lupo per tutto e a presto. Crepi, grazie a te. Grazie, ciao, grazie mille. Over white. Si intitola La prima maratona, la puntata di oggi. L'abbiamo sentita dalla storia di Francesco, come è andata la sua prima maratona. Se per caso avete voglia di sapere invece come è andata la prima maratona corsa da una donna, perché sì, sembra incredibile, ma fino a poco tempo fa le maratone, intese proprio come le gare, quelle di cui ha parlato Francesco, le potevano fare solo gli uomini, e davvero fino a poco tempo fa, non più tardi di 40 anni fa. Bene, allora rimanete qui, ci ascoltiamo Le borse in diretta e poi torniamo qui all'inizio. Linee d'ombra. E la seconda storia di oggi racconta sì di una maratona, ma veramente della prima maratona che una donna ha potuto correre. Ogni tanto, facendo delle riflessioni sull'allargamento dei diritti, o meglio, sull'accettazione dei diritti, perché non si tratta di allargare i diritti dagli uomini alle donne, ma si tratta semplicemente di realizzare che non esiste differenza tra i diritti dell'uomo e i diritti della donna. Ecco, dicevo, quando ci si focalizza su un tema specifico, in questo caso lo sport, la corsa, la maratona nella fattispecie, è sorprendente immaginare quanto fino a pochissimo tempo fa una cosa così semplice come correre lungo una strada per 42 km e 195 metri per le donne non fosse consentito, cioè non fosse consentito farlo all'interno di una corsa. Le donne non possono correre la maratona, sostenevano così i medici fino a qualche decennio fa. La motivazione era incredibile ed era assurda. Il motivo era perché rischiano l'infertilità. I dottori ne erano così convinti che fino alle Olimpiadi del 1968, ripeto, 1968, la distanza massima corsa dalle donne erano solo gli 800 metri. Il fondo e il mezzo fondo non erano previsti e verranno introdotti ai giochi olimpici soltanto delle edizioni successive, mentre bisognerà aspettare addirittura i giochi di Los Angeles del 1984 per giungere alla prima maratona olimpica femminile. 1984, quindi parliamo di 46 anni fa. Perdonatemi, 36 anni fa, facevo il conto sui miei anni che sono del 75, 84, 36 anni fa, fino a 36 anni fa non esisteva la maratona olimpica femminile. Per arrivare però a correre la gara regina dell'atletica, le donne dovettero intraprendere negli anni 60 una vera e propria rivoluzione del pensiero e dell'agire, sfidando credenze e convinzioni che erano basate su un pregiudizio e sull'idea di debolezza che caratterizzava l'intera figura femminile. In questa puntata che si intitola La prima maratona, la seconda storia è quella delle prime donne che hanno corso i 42 km e 195 metri. Noi le abbiamo lette su un bellissimo blog che si intitola Passaggi Lenti, passaggilenti.com, a firma di Alessandra La Ruffa. Seguiteci lungo le linee d'ombra. È il 1966 e a Boston la 42 km più antica del mondo viene disputata ovviamente solo dal genere maschile. Quando Roberta Gibb, detta Bobby, una giovane di 23 anni, decide di parteciparvi, compie un gesto che è veramente rivoluzionario, un atto che spianerà l'ammissione delle donne alla gara dell'edizione del 1972. La maratona di Boston l'ha vista per la prima volta 2 anni prima, mentre correndo con i suoi cani nei boschi vicino a casa, intercetta i podisti che sfilano lungo il tracciato. Quel giorno prende coscienza che vuole correrla e per farlo comincia ad allenarsi, mettendo insieme chilometri su chilometri uno dopo l'altro, non sapendo però che le donne non sono ammesse. Inizia gli allenamenti con le scarpe che possiede, quelle da infermiera, senza avere alcuna nozione e senza un programma di allenamento. Ogni giorno corre in un posto nuovo per trovare stimoli, scegliendo sempre luoghi che la facciano entrare in contatto con la natura. Pochi mesi prima della gara, nel febbraio del 1966, inoltre regolare richiesta di partecipazione, la spedisce con una lettera di iscrizione e in risposta le viene recapitata una busta. Lei la apre pensando che all'interno ci sia il preziosissimo pettorale e invece la assale la delusione perché dentro c'è solo una lettera del direttore di gara, il quale le scrive che le regole internazionali non contemplano la partecipazione delle donne alle maratone perché fisiologicamente non idonee. Bobby Gibb non può rinunciare proprio adesso che si è preparata al meglio e non può accettare di essere esclusa per colpa di una regola così assurda. A quel punto, racconta, capì che stavo correndo per molto più che raggiungere un traguardo personale. Stavo correndo per cambiare il modo di pensare della gente. Bobby Gibb quindi non si perde d'animo. È pronta e determinata come a scardinare quel pregiudizio maschilista sulla debolezza femminile, il giorno della gara si presenta ugualmente al luogo della partenza. Arriva vestita con degli indumenti maschili per passare inosservata e comincia il suo riscaldamento. Indossa i pantaloni larghi del fratello legati in vita con una stringa. Sopra ha una felpa blu con il cappuccio. Ai piedi un paio di scarpe da ginnastica. Prima dell'inizio della maratona si nasconde dietro dei cespugli in prossimità della linea di partenza e quando sente lo sparo esce dagli arbusti e comincia a correre gomito a gomito con gli altri concorrenti. Lei ha paura di essere riconosciuta dai giudici, quindi ha paura di essere arrestata, ha paura di essere fischiata, ma alla fine, incoraggiata anche dai corridori che si rendono ben presto conto di avere accanto una donna, lei compie la sua gara. Anche gli spettatori, dopo che si è tolta la pesante felpa, riconoscono le sue linee femminili e la incitano. Mentre corre, vede gli occhi delle donne incollati su di lei e sente il peso di dover tagliare il traguardo perché ora non può più fallire l'obiettivo. Deve dimostrare a se stessa, alle altre donne che la stanno guardando, che una donna può correre i 42 km e 195 metri. Sul finale rallenta un po' per essere sicura di terminare la gara. La conclude in 3 ore 21 minuti e 40 secondi. La sua storia fa il giro del mondo. Il giorno successivo i giornali riportano l'impresa di questa ragazza che ha cambiato per sempre il modo in cui le donne vedevano se stesse. If I dare to ask it, I dare it to be true. If I dare to risk it, I know that I'm willing to. If I dare to want this, to want more than I have, then I dare to believe I'll have it in the end. Sent pictures of the view and still can't believe when I started climbing too. You haven't heard that I'm not afraid to fall, that I'm not deterred yet until I tell them all. L'anno dopo, Bobby Gibb partecipa nuovamente alla maratona di Boston, ovviamente sempre senza pettorale perché le norme non sono cambiate e il regolamento non prevede la presenza femminile, nonostante la dimostrazione di forza dell'anno precedente. Ma in quell'edizione è presente anche una certa Catherine Virginia Switzer, o Switzer, una studentessa di 20 anni che ha eluso i controlli dell'organizzazione iscrivendosi alla competizione solo con le iniziali del suo nome KV Schweizer. Con questo stratagemma ottiene il pettorale numero 261, una cifra storica per le donne, e riesce a partire insieme a tutti gli altri podisti. Lei è di fatto la prima e unica donna ufficialmente iscritta a quella competizione. La corsa ha inizio, ma dopo 4 chilometri il direttore di gara, Joke Sample, viene a sapere che il pettorale 261 sta su una maglietta di una ragazza. A questo punto si piazza in mezzo alla strada e quando la vede arrivare prova a fermarla, la blocca, la strattona, cerca di strapparle il pettorale gridandole «Vattene all'inferno, fuori dalla mia corsa e ridammi quel numero!». Da dietro intervengono altri corridori per proteggere la ragazza. Uno è il suo ragazzo, Tom Miller, che spintona il giudice dandogli una poderosa spallata e facendolo rotolare a terra. Arnie Briggs, invece il suo allenatore, le urla di correre come il diavolo. Lei accelera con il cuore in gola per quanto è accaduto. Nella colluttazione ha perso un guanto ed è sconvolta, ma comunque continua la gara e la conclude in 4 ore e 20 minuti. La foto di lei in bianco e nero con il giudice che la spintona è diventata un'icona. Al traguardo di quella gara arriva anche Bobby Gibb, senza pettorale, ma sempre prima tra le donne, sfiorando il tempo dell'anno precedente, 3 ore 27 minuti e 17 secondi. Questi risultati ottenuti dalle due ragazze statunitensi aprono la strada all'inclusione, nel genere femminile, nelle competizioni di lunga distanza. E così nel 1971 la maratona di New York apre le iscrizioni alle donne, seguita poi da quella di Boston l'anno successivo. Oggi sono sempre di più le donne che corrono le maratone e i loro passi hanno avuto inizio su quell'asfalto. Erano a Boston ed era il 1966. Questa bellissima storia, queste due bellissime storie, quella di Catherine Switzer e quella di Bobby Gibb, l'abbiamo trovato su questo sito molto molto interessante, si intitola passaggilenti.com. È un blog di Alessandra La Ruffa, che è anche l'autrice, che racconta, che dà consigli sul camminare lento attraverso dei luoghi che sono fuori dai circuiti turistici, e mai come in questo momento viene voglia spesso di guardare e di immaginare di poter andare a farsi magari delle corsette o magari delle passeggiate lente in luoghi appunto poco affollati, che è il consiglio principe per tutta quest'estate, per questa primavera, per quest'estate, e magari davvero visitare luoghi un po' fuori dal mondo. Passaggilenti.com, se avete voglia di andarvelo a vedere. Noi adesso invece sentiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui i vostri diari dalla quarantena. Linee d'ombra. Ed ora per i diari della quarantena andiamo da un'altra parte, anzi andiamo in due luoghi. Andiamo in un ospedale e poi andiamo in una casa di campagna, perché i protagonisti di questa storia, cioè Anne e suo marito, in realtà sono in entrambi i luoghi. Sono in ospedale per una malattia che non è il Covid, perché appunto in questo periodo ci si ammala o ci si cerca di guarire anche da malattie che non sono esclusivamente il Covid. Anna ha una grande leggerezza nel parlare di questa malattia di suo marito, che è un tumore che fortunatamente ha un tasso di guaribilità molto molto alto, quindi non ne sono così spaventati, lo affrontano con una grande leggerezza, una grande serenità. Vivono in campagna, vivono poco distante dall'ospedale di Codogno, quindi in realtà sono in quello che è stato l'epicentro di tutto il terremoto che ha sconquassato l'Italia, ma è stato solo l'inizio. Poi di fatto da Codogno, come dire, quella sorta di zona rossa è diventata praticamente tutta, se non tutta l'Italia, almeno tutta la Lombardia e parte del Veneto. Dall'ospedale poi si rifugiano a casa loro, che è una casa di campagna dove hanno del verde, hanno tantissimi cani, e sono in attesa di che tornino da loro gli animali che in questo momento sono gli animali che più amo in assoluto, che sono tre asini. Quindi loro hanno la fortuna di avere tre asini che in questo momento non sono con loro, perché stanno preparando la casa che hanno da poco preso, che è una vecchia cascina, e insomma sono lì con i loro cani in attesa dei loro asini e in attesa anche questa brutta malattia di suo marito se ne vada, che venga definitivamente sconfitta. Continuiamo a viaggiare per le vostre case, continuiamo a scoprire che cosa accade durante questo periodo. Ed eccomi qui, in questo corridoio desolante, davanti ad una porta a vetri opaca con scritto Centro MAC. Perché non scrivano oncologia non mi è chiaro, visto che ogni tanto arriva qualcuno che chiede dell'oncologia e solo dopo un attimo di smarrimento davanti alla scritta Centro MAC hanno il coraggio di chiedere informazioni ai presenti. Sì, signora, l'oncologia è dietro quella porta. Noi siamo invece nella sala d'attesa, nello squallido corridoio esterno, perché grazie a questo maledetto virus non possiamo stare vicini ai nostri cari mentre fanno la chemioterapia. Le infermiere e la dottoressa sono eccezionali. Fanno di tutto per farci sentire a nostro agio, in una situazione che di confortevole in realtà non ha davvero nulla. Proprio un bel periodo di merda per beccarsi un tumore. In giro per gli ospedali di Codogno e Lodi ad un mese dallo scoppio dell'epidemia. Non male. In realtà, se proprio devi prenderti una malattia, questo è quello che vorresti. Linfoma non Hodgkin, ottime percentuali di guarigione definitiva, già dopo le prime chemio. Paziente giovane, senza sintomi e per il resto sano. Indice di rischio basso. Ma comunque stare 5 ore consecutive a guardare la porta dell'oncologia che ti separa da tuo marito, terrorizzato dagli esami del sangue, figuriamoci della chemio, che all'interno del reparto non è proprio una passeggiata di salute. Ma la nostra vita di quarantena non è solo questo. Quel mostriciattolo fetente nascosto nel collo di mio marito non ha la meglio su di noi, e nemmeno questo virus che ci spaventa così tanto ormai da un mese e mezzo, visto che abbiamo vissuto tutta questa situazione dai primissimi giorni, abitando a 5 km dall'ospedale di Codogno. E nemmeno l'aria cupa e pesante che si respira in giro. Ci siamo appena trasferiti in una cascina poco distante dal paese e di lavori da fare ne abbiamo a bizzeffe. Un orto enorme da seminare, i cani da accudire, tutti gli scatoloni del trasloco da aprire, le cose a cui trovare una sistemazione, la preparazione degli spazi per il trasloco degli altri nostri animali. Abbiamo 3 asini che adoriamo, che al momento sono rimasti da mio papà in attesa di giorni migliori in cui poterli trasferire. E progetti. Milioni di progetti su cui fantasticare e lavorare. Ai soldi per realizzarli, penseremo più avanti. A volte ci facciamo prendere da quella pigrizia malinconica che ci circonda e allora ci mettiamo sul divano, con un caffè, a guardare l'ennesima puntata delle Casalinghe Disperate. Che telefilm eccezionale. Poi ci sentiamo un po' in colpa a buttare del tempo con tutti i lavori che abbiamo da fare. Ma chi se ne frega, dai, ce la meritiamo un po' di coccole, no? Ma per la maggior parte del tempo lavoriamo, cuciniamo e mangiamo tantissimo. Giochiamo e ridiamo un sacco. A volte bisticciamo anche, ma quale coppia sposata non bisticcia di tanto in tanto se deve stare insieme 24 ore al giorno? I nostri 4 cani si sono abituati in fretta ad averci entrambi a casa e ne sono entusiasti. Da alcuni giorni niente passeggiate, ma le sostituiamo con altre attività, giochi, ricerche ed esercizi che li divertono e li appagano. Un po' di lavoro, riposo, coccole e giochi per tutti in questi giorni. Ci mancano gli amici e ci mancano i nostri asini. Ma sappiamo che questa distanza è necessaria e a noi non pesa. Sappiamo di essere fortunati, con un linfoma nella nostra vita, è vero, ma insieme, con una bella squadra di cani a farci compagnia, in campagna, con verde e aria a disposizione. Abbiamo una bella famiglia, che già da diversi anni vive distante, ma unita, fratelli sparpagliati in diversi continenti e città, uniti da quella meravigliosa invenzione che sono le videochiamate e i gruppi WhatsApp. Abbiamo un sistema sanitario che si sta prendendo cura di noi, nonostante tutto. Abbiamo 2 teste lucide e positive, che ci tengono attaccati al presente e al futuro. Perché sappiamo con certezza che il nostro futuro tornerà, così come l'abbiamo sognato, o forse addirittura migliore. Torneranno le cene con gli amici e i pranzi di Natale in famiglia, torneranno i clienti e con i loro i soldi per pagare il mutuo. Arriveranno i nostri asini e le risate dei bambini che li salutano e giocano vicino al recinto. Tornerà l'estate, la vita e la gioia. E saranno più belle e splendenti che mai. You belong among the wildflowers. You belong in a boat out at sea. Sail away, kill off the hours. You belong somewhere you feel free. Run away. All bright and new. I have seen cover. You belong in that home by and by. You belong among the wildflowers. You belong somewhere close to me, far away from your trouble and worry. You belong somewhere. Stiamo arrivando alla fine anche di questa storia seriale in cui vi abbiamo raccontato la storia di Irene e della sua famiglia. Irene e il marito si sono ammalati di Covid-19 e hanno veramente vissuto il calvario che abbiamo visto nei giornali, nelle foto, nei telegiornali, e abbiamo ascoltato nelle storie che ci sono arrivate anche dai giornali radio. Siamo stati con lei, con suo marito, con suo figlio che è dovuto stare lontano, Giovanni, il loro unico figlio, il figlio più grande in realtà, perché tra poco Irene partorirà, visto che oltre ad essersi malata era incinta già di 7 mesi. Stiamo andando verso la fine. In questo episodio Irene ha raccontato a Mauro Pescio le sue considerazioni, cioè che cosa ha... come ha vissuto e cosa ha capito, se ha capito qualcosa di questa esperienza. Io sono in trepida attesa perché domani sentiremo Irene, come sempre facciamo alla fine di ogni storia seriale, sentiamo il protagonista e voglio davvero sapere come sta, come stanno, come vanno le cose e quanto manca al parto. Questo domani, ora stiamo con lei e capiamo a che punto siamo della storia. Il sistema... si vede benissimo che è fatto dai singoli, quindi dipende proprio dove vai, i singoli che trovi e come sono, perché il sistema, l'impressione è che non ci sia. Non è mia intenzione muovere delle critiche in un momento come questo, ma per quella che è stata e che è ancora la nostra esperienza, il sistema non c'è, non esiste. Quando siamo entrati in ospedale ne abbiamo trovato delle tracce. In ospedale c'è una struttura, un'organizzazione che sostiene i singoli, ma prima e dopo non c'è, oppure se c'è, noi non l'abbiamo trovata. L'impressione forte che abbiamo avuto è che sia molto lasciato alla sensibilità, alla bravura, alla competenza e all'umanità dei medici e del personale che deve fronteggiare l'emergenza in prima linea. Durante la nostra chiacchiera abbiamo parlato di quale sarà l'eredità di questa esperienza. Ecco, forse più che ai problemi economici cui dovremo far fronte, penso a quali saranno le conseguenze sul nostro modo di pensare. Noi siamo diventati adulti e per noi, penso alle generazioni degli ultimi 2 secoli, secondo un'idea che è nata con l'illuminismo, un'idea di progresso, di razionalità, di un mondo fatto di cause ed effetti. Magari un giorno scopriremo che anche il Covid è l'effetto di una qualche causa, ma ad oggi sono più propensa a credere che sia semplicemente l'irruzione del caos dentro un ordine. Un ordine che magari critichiamo, mettiamo in discussione, ingoiamo malvolentieri, ma che riconosciamo e ci sappiamo spiegare. Accettare l'esistenza di un caos di questa portata, che possa irrompere velocissimo e stravolgere tutto e mantenere un equilibrio come esseri umani, questa, credo, sarà la nostra prossima sfida. Per quanto mi riguarda, se restringo lo sguardo su di me, mi auguro che da qui a quando la mia storia andrà in onda, la nostra situazione sia diversa. Mi auguro di sentire la mia voce, il mio racconto e pensarlo come un evento del passato recente, drammatico, ma definito nel tempo, superato, un evento che appartiene al passato e non al presente. Va bene, Mauro, d'accordo? Vi ringrazio tantissimo. Ho rigirato le acque, sono un po' a sinistra nel... Va benissimo, d'accordo. Grazie. Va bene, ciao Mauro, grazie. Ciao, grazie a voi, grazie mille. Ciao. Grazie davvero, grazie a Irene che ci ha raccontato questa storia, ci sentiamo domani per sapere come va. Grazie a Mauro Pescio, grazie a Danita Panizza, a Paolo Corleoni, a Luca Micheli, grazie a tutta la squadra di Linee d'Ombra, grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie, lineedombra@radio24.it, una storia che varchi un confine, che vi abbia fatto passare da uno stato ad un altro, di qua o di là, di quella linea d'ombra. Ora lasciamo la linea al GR, noi torniamo domani puntualissimi a raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!